A Banca da Coso, sono 9.30 da... come cavolo si chiama? Ce l'ho sulla punta della lingua, da... quello che c'era poco fa. Roberto. Allora, 87, così. No, con l'altro, sono 9.30, arrivo da lui. No, ce l'ha con Mecla. Da Danilo. No, da Roberto. Beh, Roberto, c'ho la segnale come il mio. Anche a me sei quasi sul 30, sul 30 piano piano no, però. Aspetta, bisogna vedere le temperature dello Smith se sono uguali. Questo è preciso perché anche questo è stato revisionato da poco, quindi è precisissimo. Il suo è anni che non lo mando a revisionare su 440. Avanti Dani, ciao, buonasera. Sì, ciao. Ma già si sente che è cambiato il radio, mica. Si è sceso un pochino. Ma io sposo se avvicino a casa, tu però, ciao Dani. Sì, ciao. Sì, l'ho appena accesa questa, quindi c'è pochi watt, vediamo. Ho 8 watt modulati un po', va, però 8 watt importante, c'è l'altra, ne ha 15. Il Galaxy, ma questo secondo scalo si stabilizza a 10, mi pare 10-15 watt, poi inizia a picchiare 50-60, però va bene. Ok, ricambio radio nuovamente, vai, ok? Ma glielo metti la bambina là, che vuole farci un pochino di rodaggio ancora. E beh, lui, fascio di sì. Che no, faccio una roba, Dani, con soldatore, così che non è che posso... Che non ho capito che arriva più forte addirittura col Galaxy. Col Galaxy mi arriva a 9.40, Claudio. Invece con il Kenwood mi arriva a 9.30. Ehi, vabbè, se scalda il K, più o meno lo stesso segnale, questo c'ha 15 watt. 15 watt. Perché di più basso da voi, anche la te lui. No, sei sul 60 qua. No, ho capito, con gli stessi watt, però non lo so. Cazzo, non lo so. Così è. Anche col baracchino lui, la paloccia, bene arrivo col baracchino. E lui? Non ti piace? Bella, bella tu. No, io non c'ho niente attaccato, no. Poi non si intende nulla, tutto silenzioso. Ehi, si attaccò la remita che fate bocca brutto, non si vento. Caro Danilo, così è. Vabbè, dai. Vuol dire che 140 è così, cosa vuol dire? È freddo ancora. No, ma so seriamente, Nicola. Col Galaxy, non perché te lo faccio io, ma veramente, sali più sali di 10 in più di fondo scala. Lo so, buona giornata, allora vuol dire che il Galaxy mi viene 140, non lo so, ma ormai lo spedisco domani, così si arrangia il proprietario, visto che più forte è questo, cosa avete detto? Certo, meno venire in Denmark, se no ti do rendaretto. Tanto non mi intendi che è il continente, cosa ti ne affutti? Ah, beh. No, vabbè, l'ho appena acceso, dai, quindi... È così, no, questa funziona bene da lì, sono contentissimo, dai. Ah, anzi, ti volevo ringraziare anche per quel... il retro dell'Alfa, perfetto, Dani, molto molto perfetto, meglio dell'altro. Te l'ho detto io, tu fidati di me, non ti mettere mai le mani in croce davanti a dirmi no Dani, non invudio, se ti faccio un regalo te lo faccio buono, e Luca già lo sa, se ti devo fare regali io te li faccio senza problemi. No, ho cambiato neanche la scocca. Visto c'erano quei graffiettini, me l'ha tolto Roberto con la pasta abrasiva. Ma no, ha detto lui, o questo non c'è bisogno di cambiare niente. È perfetto, funziona perfettamente. Capito? Va bene, grazie a voi, già lo sai. Sono sempre qua a tua completa disposizione. Antonio Bombolino, casa te iniziano a preoccuparmi, tu eh. Capa! Vabbè, dai, abbiamo migliorato. Quando comincia la primavera mi sa che la salgo un po', poi vediamo. Allora, cosa facciamo lì? Già ne ho pari telescopici per quell'antenna, ne aggiungiamo altre due, la solleviamo di 4 metri e vedi che sicuramente lavora ancora meglio, dai. La verità, tutti dicono, ma io mi trovo bene, la verità. È stato pure una boomerang di Zigussi. Anche la boomerang, io mi sono trovato bene, la verità. L'ho provata, l'ho usata e mi trovavo bene, la verità. E poi mi sono messo questa perché è più grande. Ok, che antenna stai usando tu? Io, a Ringo. Cioè da Ringo? A Ringo della Lemme, la non la conosci? Ah, buh, non ho capito ancora che antenna è. Ringo Lemme. Ma con l'antenna veicolare, sì. Antenna l'ho detto, Quanto è lunga? Non so, 5 metri e mezzo sarà. Già si sente bene anche con quell'antenna, dai. A me mi arrivi a 9,3 picchi di 30, 9,20 fisso picchi di 30 mi arrivi. Capa, questa qua, adesso sto provando con questa radio qua, vedi com'è, quella c'ho, questa qui, niente di meno, era di mio padre, me l'ha data lui, tanto uno non ce ne faceva niente e ci mancava quel coso, chissà spirale, l'ho buscato da Fusano, miraggio piazzata, ed è meglio dell'altra nuova, una cannonata. A volte i piccoli accorgimenti migliorano tutto. Capa, me l'ha buscato a Fusano nuova quando me l'ha data, l'ha imbustata, me l'ha data a Fusano, me l'ha data, me l'ha data quella spirale là. Aspetta. Aspetta! Non sei più inteso, Gasbro! C'è che sta male, mi hanno detto! Sta male? E cosa c'ha? E dice che c'ha la febbre alta, mi ha detto la compagna! A trovare un Covid? No, sonno, dice che sta male, l'ho telefonato due volte, dice che ha letto con la febbre che non si muove, cioè, dice che sta male. Questo mi dispiace. Mi dispiace, ci informeremo meglio, vediamo un po'. Avanti, Flipper, quindi che sono cos'è? Il segnale mio non ti piace. Tino muscolo dov'è? Buco. Capa. Era il buio qua con la luce, quella di cortesia. Sono andato in cucina, Lu, e stamattina tu hai detto mi si è fulminata la lampadina. Ho comprato quella da... assorbe un watt nella 100. Mi si è arrabbiata la vita dalla luce che vede. Le LED sono così. Addirittura. Siete in casa. Perché mia moglie non ci vede a cucinare, a fare, e trovate siete meglio io. No, faccio i faretti io. C'ho i faretti due agli angoli della stanza e uno all'altro angolo della stanza. Adesso c'ho quello di dietro che illumina le radio. Invece quando sono di spalle accendo gli altri due che illuminano sempre le radio. Sempre a LED però, Bene, bene. E così vuole. C'è una luce frontale che si fa di giro. No, lampadario normale. C'ho lampadario normale sempre con la... con luce normale, quando invece uso il radio accendo i faretti, questa è la stanza proprio fatta apposta, capito? Accendo i faretti per illuminare tutte le radio. Va bene, va bene. Ma il Tino, finito è lui con quel coso, con quel saldare. Ma lui, finito è il saldare, non Tino. Sì. Finio. Bulldog, adesso c'è. Massimino sabato e domenica è sempre impegnato. La verità l'ho sentito di sfuggita, però non l'ho disturbato oggi. L'ho lasciato un po' in parcheggio. Adesso le mando un messaggio a ver se c'è, cosa sta facendo. Capa. Ma comunque già se sono contento, vai. Almeno se mi capita di cacche stufa, importante non rifare di nuda che c'ha voce. Cosa tu? Ho detto che anche se, per esempio, facciamo un esempio, se dovessi attaccare il tuo, come si chiama, RM Italy, non le vado di nulla a mia, lo sai. Ma al Midland, cioè come diciamo, all'87. Sì, se dovrei attaccare una cosa del genere, non li fa niente. Assolutamente no, le dai meno di 10 watt d'ingresso e lui fa il suo lavoro. Io provandolo con questa radio, adesso l'ho staccato, provandolo con questa radio le davo 6 watt e me ne dava quasi 600. Sono contento, va. Ah, giubiliato, me li ho saldati bene bene bene, gli ho messo in naso, tutte cose. Sono cazzato in una gabbiciuria e me l'ha giubiazzato. Hai fatto bene, io te l'ho detto, tanto io l'ho pronto a darti quello che c'ho io. Però il più grosso tu hai detto che non chiudeva la finestra. E allora hai fatto bene a prenderti il 155, capito? Perché è un ottimo cavo, ottimo, con la O maiuscola. Cavolo, c'ha il coso bello rigido, c'ha. Arrivi l'elettrico, pare. Che tu pare, cioè, alla fine, il coso, come si chiama? Non è male, perché la verità già usciva lo stesso, però questo mi sta accorgendo. Anche con i segnali mi sono accorto che c'è un'altra cosa. Anche ricevendo voi ha aumentato di un pilino, ha aumentato di tutto, soprattutto in trasmissione. Io adesso è come che abbia l'antenna diretta, No, va bene, come hai detto tu, proprio hai detto una cosa giusta, capito, hai detto una cosa giusta. Adesso se stai andando con 10 watt, stai andando con 10 watt, prima se stai andando con 10 watt te ne avviene 4 in antenna, è così. Che poi funzioni, nessuno lo mette in dubbio, ma funziona come deve funzionare. Invece quello è un cavo che funziona bene. Capa. Sì, adesso va bene, cavolo. C'è un po' che. Non è che io ne avessi molto, ma un po' di dispersione era già la via, però. Cioè, non c'è nulla da fare, io me ne sono accorto che ha cambiato dal giorno alla notte. Quando parliamo di cavi, ragazzi, no. Tu ci avevi 6 metri di cavo, 7 metri di cavo, va bene con 58. Ma quando parliamo di grandi misure, oltre i 20 metri, ci vogliono cavi buoni. Altrimenti ti crei solo problemi e basta. Io ho 58. A casa di mamma nel 74 usavo il 58. Io ho sempre usato il 213. E poi da 213 sono passato direttamente alla Camille. Capito? Nani, ci sei? Sì, sono sempre qua. Ma la stessa cosa ho fatto io. Avevo la Camille. Adesso c'ho il 214, non so se l'hai mai sentito qua, ma mi sa di sì. E mi trovo lo stesso bene anche come ricezione, come segnale per le varie. È anche un buon caso. Sì, lo conosco, ma per me è un po' troppo rigido, perché poi io come ho sistemato i baracchini, che sono tutti in linea, no, già te l'ho mandato la foto, mi toccano al muro, capito? Mi tocca il muro, invece la Camille, vabbè, entra nel commutatore che è vicino alla finestra, l'antenna, e poi ci sono gli spezzoni che vanno dal commutatore alle radio, fisse, senza toccarle, quelle che uso normalmente, che sono tre, sì, questa è il Midland e l'Inuit, sono fisse, mentre gli altri le sposto se devo fare qualche prova, farle andare ogni tanto, capite? Però è meno rigido del 214. È meno rigido, anche molto più leggero del 214 rimane. Il 214 è un piombo, però c'ha una buona, cosa ti posso dire? Mi trovo meglio con questo cavo, dai. Sì. Sono cavi ottimi, KK. Avanti, Flipper. Secondo me si sta saldando le dita e non riesce a schiacciare il PTT. Dopo dai, sono già le 7.25, dai, adesso chiudo che vado a farmi la doccia. Dai, ci sentiamo un altro giorno, claro. Dai, adesso vado, adesso chiudo tutto. Dai, ci sentiamo un altro giorno. Buonasera a tutti, ciao. Ciao Dani, un abbraccio, ci ascoltiamo, grazie per essere entrato. Avanti, bombo. Ehi K, saluzoni l'amico, non mi ricordo il nome, ce la risentiamo alle prossime. Ehi, ehi, aio Luca, riprendi. E chi è che è entrato, chi è? No, Danilo se n'è andato. Ah, ciao Dani. Ehi, AKK. No, io c'ho sia discesa che cariche antenna fatta col Love Loss, che è quello che ho dato Antonio. Ma no, la verità, sono contento, anche lavorandolo ci presta molto bene. Intanto io faccio le antenne con quel cavo e ci caricano anche mezzo kilowatt e nessuno mi ha mai detto l'antenna tua si è sciolta. Sì, no, va, me ne sono accorto, cavolo, quando me l'ho piazzato. Ha fatto sopra, l'ho smontato quello là e ho piazzato questo. Mi sono accorto la differenza. No, non è a casa Massimiliano, per quello non è acceso il radio. Fanno i frisciuri, la Saudi. Mi ha detto che non è a casa, vieni in giro. In giro fare i pareti. Ehi, ehi, tra l'altro lo sabato domenica, ma è giusto così. È stata la settimana speciale di Clamazzone tra le 6 di sera. È chiaro che sabato e la domenica bisogna contattare anche la famiglia. Certo che sì. E Antonio era a battere la lampada azzurra. Cos'era quella lampada? La lampada era a battere azzurra, Antonio. Stavo facendo un po' di musica. Era un mese fermo. Da Capodanno che non l'ha acceso più. Oggi ho deciso di farla andare un po', sennò mi si rovinano le casse. Ah, sì. Ma quello è un impianto praticamente completo, Capa, quello è un impianto completo, sì, completo di mixer e tutte cose. A me mi piacciono, è la mia passione, la musica. Ehi, cazzo, 7.8.9.25, sono finita con la radio, la spengo, la devo ancora imballare, cazzo, dai, ragazzi, ci sentiamo dopo. Ok, Anto, ci sentiamo dopo, perché mi devo preparare con la radio domani mattina. Alle 9 devo andare a spedirla, se no mi ringaggio pure me. Ok, tanto mi preparo così porto anche le camere. Se ci sei ci sentiamo dopo. Sei a cappa, dai, ci sentiamo. Sto acceso qua, non c'è problema. Ehi, mi assento anche un po', dai, ci sentiamo dopo. Ciao dopo. Ehi, allo, ciao. Un attimino. Amoria! Hola. Cucù! Oh, yeah. C'è qualcuno? Buonasera. Ciao a tu. Poi ti, buonasera. Aspetta, devo fare una cosa. Eia. Allora, l'hai appena accesa quella radio. Cosa? L'hai appena accesa quella radio. Sì. Me ne sono accorto. Perché? Cosa c'è? Perché ci vuole un pochino prima che ti dia tutta la potenza. Vabbè, perché Masso sta arrivando. Non per niente. Sei 9.20 io in oggi. E allora? Adesso questa rabbia stai migliorando. Poco fa era appena meno di 9.20. Adesso stai salendo, ma è normalissimo che lo fanno. Se non è calda è normale. Sì, va bene, va bene. Ove chiama e andate. Ma se ti rimbari a buraghisa. Sì, va bene. No, è la PC accesa, non è che non è... era sempre accesa, però è la PC. Cappa. E boh. Io bene ti arrivo, ho cambiato il capo oggi. Quasi uguale, appena appena più fioltino, ma niente di che. Cappa. No, sono contento, la verità, sono contento. Sicuramente in lontananza un po' meglio. Non arrivi a 9.20 qua da me, Sì, 9.18, ma già va bene. Sì, cavolo, se va bene. Ma è una cosa di differenza che c'è. Cavolo, quello là è molto più fine, più leggerino. Che te è più grosso, Lo so. Assolutamente, il 58 si usava qualche anno fa, Addirittura noi. Negli anni non so, usavamo l'RG8. E boh, che era addosso, mamma mia! Cioè, era un bel rigido. Sai che i capi più rame contengono, più sono spesi, più la calza è più buono è. Sì, quello sì, ma l'RG8 proprio, mamma mia, ce l'ho un po' di anni fa. Ui, te ne lampava tutto, no, non faceva proprio. Io ce l'ho avuto, ti dirò la verità, non è che ce l'ho avuto, ce l'ho tuttora, perché adesso va bene, accoppiata con dei dipoli, però quel cavo lì ce l'ho dall'88 sino ad oggi, figurati. Era buono, quando attaccavo quello cambiava la ricezione e cambiava tutta. Guarda quanto andava. No, allora io sto usando un cavo più selettivo, più fino. Ma quello ce l'avevo e l'ho accoppiato con dei dipoli per altre frequenze. Cosa ci hai messo tu in questo impianto? Cosa ci hai messo? Non stavo seguendo che c'è un po' di bell'aria qua a casa. Ah, non ho detto, in quell'impianto che stai usando adesso, cosa ci hai messo? Ho un po' di tutto, quindi è un miscia, nel senso che ho varie radio con diversi tipologie di cavi, 216, RG8, 58, un po' di mischiati, dai. I foramari, è quello di discesa, cos'è, RG8? Guarda che non stai facendo il radio, Hola. Hola. Forse non ho premuto bene io. No, in questo sto usando quello che hai tu, preciso. Guarda, è una meraviglia, Lo sto provando, capo, ma va che è una meraviglia. Andabex. Capa. Aspetta che ti provo un'altra radio, tu mi dici come arrivo con l'altra radio? Ma non c'è problema. Guarda se è cambiato qualcosa tu. È la moglie che ha cambiato. E cosa? Radio, segnale, buh? Il segnale è quasi lo stesso, però la radio è piena. Più forte questa qua. Sì. Boh, aspetta un attimino, cambio radio. È più piena, mi capito. Guarda questa invece, c'è un po' di banana. E questa invece? È il top. Che cosa? È il top. È migliore questa? Sì, questa va alla stragrande. Però è un po' più bassa il fatto, dai. Ma mica tanto, Andare, dai. Mica tanto, non è buccia di gioca. Come dai, oggi ho vari rumori qua a casa, quindi. Al di là di tutto, però, questo è il top. Lo so, questa è un altro pianeta. Ciao. aspetta, va bene, va bene, già si sa cosa è, non è che non si sa, funzionano bene. Aspetta che devo scrivere a una persona, scrivere su internet. Vai tranquillo, va. Sì, vai tranquillo. Oh, yeah, mamma mia, mi fa tremare i nonchi, troppo ho camminato. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, scappa. Miau. Hola, hola. Hola. Gioco giù. Amoretta. Eh beh, lui, ritornato a casa, sì. Aspetta un attimo. Via. Avanti. Poi Franco c'è. Vai un coso, vai, lo drudio, come ti chiama? Si sta innescando. Va quasi bene adesso. No. Sta innescando, ma è roba di rientro però, rientro di RF. Ora va bene. Sì, poi quando non vai antenna, soprattutto un bici radio, lascia perdere. La manto va. Ma poni il sostegno per me. E non tocca la più me. Eia. Certo che ti ascolto. Benissimo. E tu quanto mi ascolti? Ho cambiato il cavo. Bene mi senti? Vai. Sei nuovi sei. Ma sei a 9.20 a 9. Quasi 9.20 era. A me era costurata la grande. Sei da 9 a 9.20. Nuda, nuda, quando ti ha trovato una frega di scusa. La vogliamo mettere fuori un attimo, Mettila fuori che è meglio, e poi una cosa come ti si deve, un'altra gubicciuria. Guarda, aspetta qua che facciamo un po' qualche punto, dai, accendo la radio. Prova, prova. Franco. Ehi, ci sta mettendo l'antenna fuori. Aspetta, perché ti sto ascoltando un'altra radio, devo cambiare per... guardami tu invece, se incrementa, guardati questo segnale. Questo è normale. Adesso è aiutato un pochino, ha fatto qualche miglioramento. Qua mi passi da 9.10 oltre 9.20. Aspetto, non ci capiamo niente. Aspetta, Franco. Stesso, sempre 7 con picchi positivi a 8. Guarda qua adesso, Fra, come sono con questo segnale? Appunto, dico, faccio da 5, adesso è 9, 9, 10, così è. Guarda un po'. Cosa vuoi di più? Non si dice qualcosina in più. Lascialo così che va bene. Adesso con questo invece di meno, vero? Guarda un po' il segnale. Adesso stavi arrivando a 9.10 quasi. Sì, già lo so, già lo so. Vabbè, qua è niente, qua sono 20 watt fissi e gli altri sono modulati, quindi non c'è la stessa cosa, ecco. No, va benissimo. Diciamo la verità che se abbassi leggermente il watt vai con più picchi positivi, se invece gli dai tutti non hai picchi positivi, però il segnale non cambia, non ti credere che... Guarda, per me sono sempre positivi, non cambia, la radio è ottima, quindi non c'è problema. No, diciamo che era meglio prima, nel senso che se tu gli dai qualche po' di watt in più è meglio, ecco. Così è perfetta per me. Allora, sono sicuro che oltrepassi 9.20, Sul tetto a me il minimo mi arriva a 9.50 minimo. Sì. Il segnale è buonissimo, va bene, se 9:20 è radio 5. Sono vicino, ci arriva a 9:50 fra. Ehi, ci arriva a 9:50, se noi arriviamo a 9:20, io che sono più vicino, ci arriva a 9:50. Qua lo stesso. Se 9:40 è poco di più, dai. Io venga, guarda, mi ha acceso tutti i forti, anche Tino. Ciao Tino. Ti sono fatto poco fa, ma forse è cavata la linea. Ciao, ciao. No, vabbè, poc'anzi stavo utilizzando un vecchio Rincon in accoppiata con un amplificatore, adesso questa è sempre la mia, la solita, dai. Va bene. No, mi sono spostato un attimino per prendere l'acqua al cane. Basta, nell'attimo che mi stavi salutando non ho sentito. Va bene, dai. Abbiamo rimediato. Bene. Aspetta che ti mando un messaggio, ti chiamo, ti posso? Sì, Jimmy. Oggi mi ha giocato una bella passeggiata da piedi, ho sceso latte dolce, ho fatto tutta la bretella e poi sono sceso qua a Predagnetta, cioè, in Viale Protettore si mi ha fatto una sagomissione, e oggi, guardate, mi invitavo a intimare i ranchi, oggi mi sono mosso, mi sono mosso a fare tante cose. Poi ieri ci abbiamo fatto un bel picnic al mare con Sara e via. Io ci ho mangiato i nuggets, abbiamo fatto tramezzini, panini e cose, abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato giù a Platamona, poi si è imbruttito e ce ne siamo andati. E anche con chi sei sceso? Ehi, quello, appena che esce il truggimento, già si può, là. Travaglio. Sei bello, ma ti posso chiamare? Eia, chiama! Ma come sta con te? Quale cosa stai parlando? Già va bene, già. E altre volte c'è il... Ma strano, è molto delicato. Se premi questo già va. Ma si scioglie tutto, bra. Ci vuole antenna, ci vuole antenna, fra, lascia perdere. Cosa bisogna darle, massimo 30 watt, 50 watt così, ma non di più. E poi è inutile, tu le spingi con le antenne, le spingi ma no, non hanno resa. Non è come un'antenna da tetto. Eia. Questa cosa alternata no, non va bene, no, guarda, non si ha il microfono, adesso va bene, è l'alimentatore quello normale. Non è quello cinese, no? E la si sente, ma per un'alternata, proprio... sì. Ma va, sì. Capo, adesso già va bene. Sì, sì, va bene. No, già va bene, fra. Ah, se mi attendi l'antenna sopra il tetto, se no te l'avrei data io un'antenna che già usciva. Sì, già va bene, già. No, va bene, va bene. Maria. Maria. È un po' basso, No, non è che sia male, ma è un po' basso di modulazione. Sì, ma non dispiace, è anche questo. E poi forza, già andava. Aspetta, attaccalo, io scendo giù a fare bisogno. Sì, qua. sì, a casa tua. No, ma io ti ascolto bene. La radio 5, abbastanza chiara. È una bella modulazione, sta uscendo abbastanza bene. Però meno, qua ti ascolto bene, gli altri non lo so come ti ascolto. Qua ascolto bene, l'ascolto bene, dai. Ti ascolto anche io bene, Ginko. Santo, dai, mi assento un attimo, in caso mai ci sentiamo più tardi. Ciao Franco, ciao Antonio, dai, che prendete su. Ciao Manuel. Ah, se vedi che cosa modificando. Circuito da 1300 che fine ha fatto? Capa. E c'hai la cosa del dettaggi? Già va bene. Capa. Fai bene a farlo sì. Ma già è buono le 1300, cavolo. Ma comunque che dettagli è la verità. L'MB più 4, più 5, funzionano bene la verità. Però io non sono d'accordo a modificarle. Se tu le lasci così, normale, se c'è una radio che spinge, per me va bene. Ma chi è quello giallo? Preamplificato giallo. Io ce l'ho avuto quello là, avevo cambiato la capsula di scia con una bomba. Sì, avevo cambiato la capsula e basta. Ma cazzo, quello che avevo io era una bestia, usciva forte. Infatti chi ce l'ha esce un bel forte. Puoi fare così, puoi fare così. Io l'avevo messa, non mi ricordo, forse di telefono era, a sto mandava. Spinge. Ce l'avevo io, voi non lo sappia. Ah, già va bene, fra. Va benissimo, non bene, non benissimo. 7, 8, 9, 10. Poi, buonasera, Tony. Ciao, ho sentito. Amplificato, se mi dentro la cara vuota, là. Cosa stai usando? Che il microfono là? Ezza? Sì, forse. Ecco, mi dici, sì, Radio 5 è perfetta, bella. Aspetta un po', ma non è lì, sì. Cappa. No, ci sta arrivando abbastanza bene. Con chi sei qua? Buonasera a tutti comunque. Salutone, dipenditi no. Cappa, salutone Tony, buonasera. Poco fa Manuele, poi non l'ho più sentito. E mi ha chiamato, tu sei 40 anni fa, che non sei un giambo di fondo alle burrito, purtroppo. Ma tu dopo entra sul 10, sono su Facebook, che poi c'è Franco, c'è Antonio Tragetti. Vabbè, sono entrato, ma è dove? No, già è entrato, già è vero, già è entrato. Chiappa. Vabbè, Tony, tutto a posto? E niente inutile. Chiappa. Tu sei un po' più lontano. Ho aumentato da te perché ho cambiato il cavo. Prova. 1, 2, 3, prova. Più o meno sì, sempre lo stesso. E io perché sono così basso. Oh, va bene così adesso. Sì, va benissimo. Franco, va bene la radio mia? Ti porti un fischietto appresso? Lo so. Dimmi una cosa, se ti aumento leggermente. Hola, dimmi un po', come adesso? Allora, già va bene, dai. Allora, è perfetto. Massima potenza, minima potenza. Picchi positivi a 9.15. Siamo lì davanti a un po' schioppo, e mi sa che lo fa anche mamma Uso che mi ha chiamato, porca miseria. Sono fortunato, non ho possibile stoppare. Ah, te lo ricordi a Coso, lo diceva sempre. Oh, fra, allora ho vinto una rossa, la buonanima. Porca miseria, diceva. È morto, sì. E io invece ho staccato per 15-18 anni, fate il conto. E poi ho attaccato tutto. Guarda, lui è morto, secondo me ti stai sbagliando, fra. Minimo è morto più di 15 anni fa. Ma guarda, ti dirò, anch'io ero appassionato, dal 74. Poi è successo quello che è successo, ho mollato tutto, ho venduto tutto, non ho trovato niente. Poi è stato questo amico che mi ha dato un mantellino alla base magnetica, un baracchino. Poi prova così, così, con l'altra, ho provato, poi la perfetta, ma avevo che pareggio il raggiunto, e così ho fatto. No, ma diciamo che è un'ultima compagnia, trovando gli amici al campo, giustamente. Cioè, scambi quattro parole, ti passa un po' il tempo, capito? È tutta un'altra cosa, no? Io ripeto, a me piace. Scappa poi per ritrovare gli amici, un caffè e via dicendo, non dico altro, capito lo fa. Quindi, fa solo piacere. Io ripeto, la mia è una vita un pochettino monotona, diciamo, adesso sono messo in convalescenza, eccetera. Io lavoro solo la mattina, però, e la sera che faccio? Lo so, in casa c'è sempre da fare, però già devi dedicare anche un po' di ore, diciamo, agli amici, passarci una serata diversa, e via dicendo, purtroppo la vita è questa, dobbiamo godercela, dai, fra, non possiamo stare in giù come molte persone che conosco io, paccare, dai, sembrano larve, e a me questo non piace, sono una persona molto movimentata. Sì, in effetti sì, più forte. Ma non mi dire che stai modulando, dove ho visto una boomerana. È allucinante, pare più forte, boh. Sembra una telemana sopra guai. Non fare il mago così che dà, pare si benzino. Hai una posizione positiva, perlomeno per me, poi. A te come ti arriva, Franco? Forte mi arriva. È una bella zona. Sì, è zona A, non zona B, e non fraintendete, ammazza mi sbaglia. Più puro. Ok, prova, siamo qua. Eia, vai fa. Franco, cioè, arriva forte a me, io arrivo forte a lui, è la stessa cosa. Già io gli arrivo sparato, immaginiamoci mettere l'antenna sul tetto. E io che sono fuori Sassari, sono piccolino piccolino. Ma no, no, sei forte no, altro che piccolino piccolino. Ma sono fuori Sassari io. Lo so, forse che 9,20 mi non è buccia di gioca me. E così come ti arrivo a tu? Vai vedi, era un mezzo gico, mi sono avvicinato. Guarda un po', uno, due, tre, uno, due, tre, bla bla bla. Così sei, sei appena più di 9,20. Ho messo massa un po' tempo, sono un po' cipollato. Franco, sei più basso di segnale, con picchi positivi arrivi 9,10. Però il segnale si roba di 8,9, non di più. 9,10 fisso con picchi positivi a 9,15. Poi tempo che fa un fischio di innesco sotto. Ma sempre con un rumore c'è il sottofondo. Ma io non mangio lineare, non mangio un bagar. Ma non mi dite un da qualcosa pure a me. Con tipo 1000 watt, 2000 watt. C'è sempre quel fischio sottofondo, cara. Mi la portante silenziosa un attimo. Ti porti qualcosa dietro. Stava, cioè, si è annullato, poi si è ripreso di nuovo. Così sì. C'è sempre quel rumore. Mi la portante senza parlare. C'è sempre quel rumore appresso. Sì, l'ho intorto. Sì, è proprio una tornata, c'è. Cioè. E io. Senz'altro no, Che apparato stai usando, fra? Boh, a verità, io non la sentivo questa alternata. No, sentivo tipo così, capito? No, non era alternata. Era ventola. E poi dice così, no? È un pochino. Qui, guarda. Guarda un po' così. Ma si intende? No, non era così quello di Franco, il rumore è diverso. Perché ce l'ho porta il microfono a tavola, capito? Vabbè, invece mi piglio la pastiglia antidolorifica. Ma speriamo che basta il rumore, capito? Piremo. Ok, questa pastiglia. E così sono a posto per oggi. Due al giorno, cortisone, 4 mg. Mamma mia, io sono fieggia. No, no, no, no, no. Ho letto il bugiardino dentro e poi io sono infiammato praticamente dopo l'operazione, poi ho strapazzato il viaggio, poi da quello casino. Praticamente i muscoli che ho sotto le chiappe mi fa morire. Io ho sto un po' in piedi, mi devo sedere perché ho troppo dolori forti. Infatti cito, a me non vuole il mare il bucato ernia, a me ne ha giù due o tre. Vabbè, piano piano magari già. Già passa, ci vuole il tempo. Fra. Ma si può tanto aspetta. Di avanti fra. Sei calato di qualche cosettina piccolina piccolina. Ma prima andavi bene, 9,10, picchi positivi, 9,15, gli allagano così. Ma qua era la ventola che si sentiva poco poco. Ehi, non è nuda. Adesso più basso il signore non lo sta facendo. Lascialo così. Chi è che ha detto attenzione, avanti? Cazzo, fra! Fra, un attimino. Aspetta, fra, aspetta che stanno modulando, me l'hai tutto schiacciato. Avanti di nuovo l'amico che stava entrando, che mi siete sopra corporati. Avanti. Ciao Gianni, mi hai sentito? Ma non è il segnale tuo, se le semette basso, Santiago 8, la radio 5 è perfetta. Non capito, non capito perché sei così basso. Ok, grazie Gianni. Bene me da Franco California, Antonio Bombolo e io, presso qua in questo canale. D'accordo, buon con X Gianni, saluto il coreano e anche a chiudere il girito. Avanti Franco. Franco? Franco si è pushato, avanti a tu. Vabbè. Saluto i Capri 2, buonasera.